Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti anche per questo martedì 28 gennaio, nel day after delle elezioni. Chiaro, i ragionamenti si fanno più pacati e meno legati all'entusiasmo, alla depressione del momento. Di questo parleremo leggendo i giornali, ma subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Iraq, gli americani sospendono tutte le consegne di armi. Giordania, re respinge il piano di pace di Trump che sarà rivelato oggi alla presenza del premier israeliano e del suo rivale. Libia, rapporto ONU sull'attacco al centro di detenzione migranti dello scorso luglio. Afghanistan, precipita aereo militare americano in zona controllata dai talebani, non chiara la sorte dell'equipaggio. Indonesia, le fustigatrici di Aceh. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dall'Iraq. Ancora colpi di mortaio contro la zona verde, in particolare verso l'ambasciata americana, questa volta ferendo una persona. Non un soldato americano, ha precisato il comandante Frank McKenzie, provocando alcuni danni. Secondo alcuni fonti, i proiettili avrebbero colpito un ristorante all'interno del compound americano. Il segretario di Stato americano Pompeo ha biasimato l'Iran per il lancio. Intanto l'amministrazione Trump ha sospeso tutte le consegne di armi in Iraq, compresa la consegna di missili Sidewinder e Maverick, che facevano parte del contratto da 1,8 miliardi di dollari firmato nel 2016. L'ultima spedizione è stata consegnata a novembre. Un portavoce dell'aeronautica degli Stati Uniti ha confermato la sospensione citando preoccupazioni per la sicurezza e ha confermato a tempo indeterminato tutto il supporto del personale agli aerei F-16 iracheni. L'Iraq non ha ancora commentato la questione, ciò però riflette le crescenti tensioni statunitensi con l'Iraq e l'interesse del governo iracheno a far uscire le truppe statunitensi dal paese. Gli Stati Uniti stanno minacciando sanzioni contro l'Iraq per aver persino suggerito di espellerli e sono previsti tagli agli aiuti militari. Questo farà sì che, tagliando le loro relazioni, parliamo degli Stati Uniti, cercano di rendere l'Iraq più dipendente da loro. Sul fronte proteste contro il governo e tutta la classe politica irachena non si fermano. I manifestanti sono almeno 9 quelli uccisi negli ultimi 3 giorni. A Baghdad 49 i feriti, le milizie che tentano di reprimerli hanno usato proiettili veri e granate stordenti. Altre 75 persone sono state ferite nelle proteste a Nassiriya e un centinaio di altri intossicati dai gas lacrimogeni. 4 manifestanti uccisi e 37 feriti a Bassora. Turchia, continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto 6.8 che ha colpito la provincia orientale di Elazig. 39 morti, feriti sono 1.607, sospese le attività di ricerca e soccorso. Con un messaggio audio su un sito di propaganda dell'ISIS, l'organizzazione ha diffuso un nuovo messaggio dove si parla di una nuova fase che prende di mira Israele. Libano, ieri si è discussa in Parlamento la legge di bilancio, più volte rimandata, mentre fuori altissima la tensione tra i manifestanti. La discussione di bilancio è il primo vero banco di prova istituzionale del governo guidato da Hassan Diab, insediatosi pochi giorni fa. Il bilancio 2020 è stato dunque approvato, chiuse le strade al traffico nella zona del Parlamento. E ora passiamo in Giordania, attraverso Israele, Palestina e Stati Uniti. Il re di Giordania, Abdallah, si oppone al piano di pace di Trump sul conflitto israelo-palestinese. La nostra posizione sul piano, ha detto in una conferenza stampa, è chiarissima, ci opponiamo. Nonostante tra Israele e Giordania, così come per l'Egitto, ci sia un accordo di pace, ultimamente i rapporti rapporti con la Giordania non sono più gli stessi da quando il premier israeliano Netanyahu ha annunciato di volersi annettere la valle del Giordano. Ieri a Washington Trump ha ricevuto separatamente Netanyahu e il leader centrista di blu e bianco Benny Gantz. Mentre oggi a mezzogiorno locali, le 5 del pomeriggio GMT, ci dovrebbe essere la presentazione ufficiale di quello che il presidente americano ha definito l'accordo del secolo. I palestinesi che non sono stati invitati a Washington hanno già annunciato il loro netto rifiuto e hanno minacciato l'uscita dagli accordi di Oslo. Gli accordi di Oslo, siglati nel 93, portarono al riconoscimento da parte di Israele dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP, come rappresentante del popolo palestinese e partner dei negoziati di pace, mentre l'OLP ha riconosciuto ufficialmente il diritto di Israele di esistere e ha rinunciato all'uso della violenza per raggiungere i suoi obiettivi. Ci si aspetta che il piano di Trump favorisca ampiamente Israele, ha già fatto dei regali a Netanyahu come la rottura del consenso diplomatico internazionale riconoscendo Gerusalemme capitale israeliana o il riconoscimento della sovranità israeliana sulle alture del Golan siriane occupate e la fine dell'opposizione degli insediamenti israeliani sul territorio palestinese. Oggi in tutti i territori palestinesi è prevista una giornata di rabbia contro il piano stesso. Nella striscia di Gaza manifestano già da ieri manifestanti furiosi, hanno marciato contro l'accordo del secolo radunandosi davanti all'ufficio del coordinatore speciale delle Nazioni Unite. Anche oggi in tutta la Palestina la gente scenderà in piazza contro quella che i palestinesi hanno definito la cospirazione del secolo. L'Iran invece ha definito il piano di pace di Trump per il Medio Oriente delirante. Libia, le Nazioni Unite hanno diffuso ieri raggelanti nuovi dettagli su un attacco aereo che si è abbattuto in un centro di detenzione per migranti, uccidendo almeno 50 persone. L'attacco di luglio, classificato tra i più mortali assalti ai civili dall'inizio della guerra civile in Libia, ha suscitato condanne internazionali e accuse di crimini di guerra. Il rapporto di 13 pagine afferma che la condotta dei funzionari al momento dell'attacco potrebbe aver contribuito all'alto bilancio delle vittime. Inoltre documentato numerose violazioni del diritto internazionale delle milizie libiche e ha sollecitato ulteriori indagini per garantire le responsabilità. È stato pubblicato lunedì dalla missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia e dall'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. La struttura di detenzione di Tagjour, gestita da una milizia alleata dal governo, appoggiata dalle Nazioni Unite con sede nella capitale Tripoli, ha messo i rifugiati civili in gravi pericoli in molteplici modi, secondo il rapporto che troverete linkato sul nostro sito. Tunisia era un'icona della rivolta del 2011, la voce dei diritti, una speranza per le giovani, donne e uomini, ma la malattia autoimmune l'ha sopraffatta. Lina Ben Mehni, giornalista, blogger, è morta all'età di 36 anni. Stai ascoltando Radio Bullets. Slovenia, il premier Marjan Šarec si è dimesso e ha chiesto elezioni anticipate. Il governo non è stato in grado di attuare le riforme radicali strutturali e per questo sarebbe onesto andare ad elezioni anticipate, ha detto Šarec durante una conferenza stampa convocata d'urgenza. Qualche giorno fa, per ragioni personali, si era dimesso il ministro delle finanze. Russia. Espulso un giornalista giapponese che aveva tentato di ottenere informazioni classificate sul potenziale militare russo nell'estremo oriente. Il sospetto di spionaggio è stato arrestato il giorno di Natale nella città orientale di Vladivostok. Afghanistan, un aereo di sorveglianza dell'aviazione americana è precipitato nell'Afghanistan centrale, nella provincia di Ghazni, sotto il controllo talebano, ha confermato il generale David Goldfein, capo di stato maggiore dell'aeronautica militare. Non conosciamo lo stato dell'equipaggio. Si tratta di un bombardiere E-11A. Secondo il governatore Ari Nuri, ci sarebbero almeno 3 morti. Poco dopo l'incidente, il portavoce dei talebani ha rivendicato l'abbattimento, ma non è molto credibile perché i talebani di solito rivendicano qualsiasi cosa. Indonesia svelata la nuova squadra di fustigazione tutta al femminile. Ad Aceh, l'unica regione nella più grande nazione a maggioranza musulmana al mondo che impone la sharia, la legge islamica. Quelli colpevoli di violazioni sono spesso colpiti pubblicamente con una canna. La controversa punizione fa infuriare gli attivisti per i diritti e genera acceso dibattito mediatico, oltre che politico. Il presidente dell'Indonesia ha lanciato un appello a fermare le fustigazioni pubbliche, ma ha poco da dire su ciò che cade ad Aceh, una regione profondamente conservatrice sull'isola di Sumatra. A differenza del resto della nazione, Aceh segue la sharia come parte di un accordo di autonomia del 2005 concordato con il governo centrale, che ha posto fine a un'insurrezione separatista lunga decenni. Qui le frustate pubbliche rimangono una punizione comune per una serie d'accuse, tra cui il gioco d'azzardo, l'adulterio, bere alcolici, fare sesso gay o preconiugale, ma il lavoro è sempre stato svolto dagli uomini fino ora. Convincere le donne a esserne parte non è stato un compito facile, ci sono voluti anni per riunire la prima squadra femminile, secondo Sia Fridi, capo dell'unità di attuazione della sharia della capitale provinciale Banda Aceh. 8 donne, tutte ufficiali, hanno accettato di essere fustigatrici e sono state addestrate con la tecnica appropriata e su come limitare le lesioni. In precedenza, una dozzina di uomini eseguiva tutte le frustate in città per una tassa non specificata. Per motivi di sicurezza, i funzionari di Aceh hanno rifiutato di lasciare che l'AFP parlasse con i fustigatori e le fustigatrici, che sono dotati di maschere di stoffa e uniformi marroni larghe per nascondere la loro identità. E ora andiamo in Cina, dove il Centro per i controlli e la prevenzione della malattia ha diffuso un'immagine della forma del nuovo coronavirus isolato nei campioni ambientali raccolti a Wuhan al mercato di Wan'an e noto come 2019-nCoV. Il bilancio dei morti sale a 106, 4.500 i casi accertati, secondo la P e 45 i casi all'estero. Per gli esperti l'apice sarà in aprile a Wuhan, metà della popolazione fuggita prima che il posto venisse chiuso, creando preoccupazioni per il rischio di contagio. Intanto nelle ultime 24 ore sono stati registrati quasi altri 800 casi. Il primo caso sospetto in Africa si è verificato in Costa d'Avorio, in Germania il primo caso d'Europa, che si prepara a rimpatriare i cittadini presenti a Wuhan. Anche il Giappone invia un charter per evacuare i suoi. Lo Sri Lanka e le Filippine sospendono i visti per i cinesi che arrivano. Un insegnante di scuola indiana in Cina ha contratto il micidiale coronavirus. Preeti Maheshrawi, 41 anni, è stata ricoverata all'ospedale di Sheku nella città cinese di Shenzhen l'11 gennaio e da allora è in condizioni critiche, incapace di tenere il passo con le crescenti fatture ospedaliere. La sua famiglia ha avviato raccolte di fondi online per consentire ad altri di aiutarla nelle sue cure. Nuova Zelanda, il primo ministro Jacinda Ardern ha indetto elezioni per il 19 settembre in un'elezione che verificherà se il suo sostegno in patria coincide con la sua popolarità all'estero. La coalizione guidata dal partito laburista di centro-sinistra di Ardern è salita al potere nel 2017 e sta cercando un secondo mandato. La Ardern, 39 anni, ha ottenuto una vittoria sorpresa nel 2017 dopo una campagna incentrata su messaggi positivi e sul collegamento diretto con gli elettori, ottenute elogi a livello globale per le sue opinioni su questioni come i diritti delle donne, i cambiamenti climatici e la diversità. È diventata madre mentre era in carica ed è stata ampiamente elogiata per la sua delicata risposta agli attacchi della moschea di Christchurch l'anno scorso, che hanno portato a un rapido inasprimento delle leggi sulle armi. Stati Uniti, la catena messicana Chipotle è stata colpita da una multa di 1,3 milioni di dollari, la più sostanziosa mai emessa dallo stato del Massachusetts, per oltre 13.000 violazioni del lavoro minorile in oltre 50 località. Chipotle è una grande catena di ristoranti nazionali che impiega migliaia di giovani in tutto il paese, al dovere di garantire che i minori lavorino in sicurezza nei suoi ristoranti, ha dichiarato la procuratrice Maura Healey in una nota Speriamo che queste citazioni invino un messaggio a altre catene di fast food e ristoranti che non possono violare le nostre leggi sul lavoro minorile e mettere a rischio i giovani. E concludiamo con il Brasile: sono 46 morti, 19 dispersi, 12 feriti e 17.000 gli sfollati della tempesta che ha colpito giovedì scorso lo stato sudorientale di Minas Gerais, provocando inondazioni e frane. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie. Passate le elezioni possiamo parlare più pacatamente di Bibbiano e lo scandalo legato ai servizi sociali. Questa cavalcata del centrodestra sull'argomento, accusando di fatti i comunisti non più di mangiare i bambini ma di affidarli in modo illegale. Chiusa l'inchiesta, 26 persone indagate, la Cassazione, infondate misure a carico del sindaco, lo sfogo del sindaco, mi hanno trasformato in un orco, rimane indagato ma non doveva essere arrestato. Queste sono un po' il riassunto dell'inchiesta Angeli Demoni, ma non è la prima volta che si parla di Angeli Demoni. Questo il titolo dell'arcivescovado di Padova nel suo giornale La Voce del Popolo Cattolico, che appunto chiamava Angeli e Demoni, una vicenda legata allora ai pionieri, organizzazioni territoriali legate ai comunisti, accusati di plagiare i bambini nei loro circoli dell'Associazione Pionieri Italiani. Un processo che diventò un mostro nazionale nei primi anni 50, si concluse con la completa assoluzione degli accusati e che oggi appunto ritorna stranamente alla mente, suonato per l'assonanza dell'inchiesta. E su Angeli Demoni ha scritto un libro Alessandro Naccarato, docente padovano, che ricostruisce la vicenda storica di Pozzonovo, paesino del Padovano, dove una riunione dell'Associazione Pionieri, che era un gruppo di ragazzi che territorialmente non solo diffondevano il giornale ma facevano anche attività, feste, sport e quant'altro, che venne accusato da parte della diocesi padovana di organizzare delle riunioni quasi fossero vere e proprie orgette con minori, dove si imparava a baciare, ballare al buio, bestemmiare e dove le ragazze presentavano oscene nudità. Ci fu anche un processo fino al 54-55 che smontò il castello di accuse, ma il dolore fu grande, c'è chi ci morì di crepacuore per la vergogna delle accuse rivolte, ma alla fine si scoprì che le orgette altro non erano che innocentissimi incontri a base di gasosa, fumetti, e le oscene nudità erano le magliette sportive che le ragazze utilizzavano per fare sport. Sentiamo allora Alessandro Naccarato, che sul tema ha scritto recentemente un libro, Angelo e Demoni i nostri bambini, di che cosa si tratta. Thank you. Lei ha pubblicato di recente un libro, Angeli o demoni, i nostri bimbi, con un sottotitolo Storia di una montatura anticomunista, il processo ai pionieri di Pozzo Nuovo. È una vicenda accaduta appunto all'inizio degli anni 50 in questo paese del Veneto, una storia che lei ha voluto riprendere, trattare, diciamo ricostruire, che fece molto clamore all'epoca anche sui giornali locali, ma che poi divenne anche un caso giudiziario e un caso nazionale. Ci può parlare di questa vicenda? Sì, molto volentieri. È la vicenda di un processo che si svolge tra il 1954 e il 1955, che si sviluppa in un clima, diciamo, ideologico molto pesante. Siamo nel pieno di una campagna contro il Partito Comunista e contro tutte le associazioni in qualche modo collegate, o meglio, che potevano essere identificate come collegabili al Partito Comunista, tra cui anche l'Associazione dei Pionieri Italiani. E in questo clima, appunto, nella provincia di Padova, siamo nella zona sud, in un piccolo paese, che è il paese di Pozzo Nuovo, con diciamo, la regia dell'allora vescovo di Padova, venne costruita una vera e propria montatura contro l'Associazione dei Pionieri Italiani, in particolare con l'accusa di utilizzare questa associazione per fare una serie di azioni scorrette che rasentavano anche in alcuni casi la violenza nei confronti dei bambini aderenti a questa associazione. I fatti sono contestati, avvengono nell'estate del 1953, poi la vicenda in qualche modo sfugge anche un po' di mano a chi l'aveva orchestrata, per cui, contrariamente a quello che ci si aspettava, finisce in sede giudiziaria, dove in due processi poi vennero assolti tutti i dirigenti del locale Partito Comunista Italiano. Quindi una vicenda che possiamo ritenere in qualche modo significativa per l'epoca, diciamo in qualche modo emblematica, rappresentativa di un rapporto che allora c'era tra Partito Comunista e Cattolici, o Democrazia Cristiana, possiamo anche dire così, che si giocava un po' sul ruolo, no, del certo, anche pedagogico, formativo. Il tema era proprio questo, cioè se l'educazione dei bambini era una funzione, come era stato in passato e come la Chiesa pretendeva di poter continuare a esercitare, oppure se in base a, diciamo, alle nuove istituzioni repubblicane nate con la Resistenza, anche il compito dell'educazione era un compito che apparteneva, diciamo, alla sfera pubblica dello Stato. Questo fu l'oggetto del contendere. Ecco, tenga conto che in quegli anni ci furono processi simili anche in altre città italiane, a Reggio Emilia, Modena, Novara, Torino, tutti conclusi con assoluzioni degli imputati e tutti, diciamo così, con caratteristiche simili. In qualche modo la Chiesa accusava queste associazioni, in particolare l'Associazione dei Pionieri, di fare, diciamo, una serie di azioni scorrette, in alcuni casi addirittura si adombravano fenomeni di violenza verso questi bambini, anche di natura sessuale in alcuni casi, proprio con l'obiettivo di delegittimare l'associazionismo di altro tipo e rafforzare invece una visione ideologica molto chiusa, all'epoca diffusa purtroppo nella Chiesa Cattolica. rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. Martedì 28 gennaio, 9 e 31 minuti, rassegna stampa all'interno di Radio Zanardi. Naturalmente siamo nel day after, lo scrutinio elettorale, quindi i giornali sono per lo più tutti concentrati sulle elezioni, in particolare sulle elezioni della nostra regione, che sono, sappiamo da ormai da un pezzo, sono anche un barometro per la politica nazionale, per la tenuta del governo. Naturalmente sono sempre due livelli che marciano paralleli ma distinti. Uno è il livello del principio di realtà, dove il centrodestra è ancora la forza maggioritaria in questo paese, e poi c'è un principio di narrazione che è quella di un Salvini a pezzi. Questo è le due cose che vanno in controtendenza. E allora, partendo dal secondo di questi, naturalmente una cosa può incidere, un livello può incidere su quell'altro, e va da sé. Ma per capire la narrazione, col Fatto Quotidiano a vedere i giornali della destra dei giorni precedenti alle elezioni. Il Tempo: governo appeso al voto in Emilia, se vince la Lega arriva lo sfratto. La Verità: il centrodestra sente aria di vittoria e sarà alle fine per sfrattare la ditta. Il Giornale: mandiamoli tutti a casa, è ora Tremaconte, citofonata Conte. Libero: PD, voto a perdere. Libero ancora: padrone della piazza, Salvini mangia tutto, anche le sardine. Questo è come voleva si dimostrare. Vediamo i giornali allora di ieri. Libero: costizza, creperanno comunisti. Questo è il Giornale: grillini affumicati, quindi chi si accontenta gode. La Verità: il Fortino Rosso trema ma non crolla. Di qui i giornali di oggi, sono sempre una raccolata dei titoli. La Verità comincia a sperare che la crollo dei grillini adesso, è anche Libero, il Giornale, porti una crisi al governo Conte. Conte si prepara al terzo governo e trizza l'occhio a Forza Italia. Questa è la verità della verità, come dire. Libero: 5 Stelle morto ma resta nel governo. Il Fatto Quotidiano: ecco perché Salvini ha perso, è da agosto che non ne azzecca una. Questo è al di là della sua aria prorompente. Il Giornale: cambia il governo, e quindi abbiamo questo tipo di titolo. PD batte cassa ai 5 Stelle, ridiscutere tutto, equilibri in tilt. Devo essere sincero, che da quando è stato il governo Conte, secondo il Giornale, anche il Giornale è sempre in tilt, ogni settimana è quella decisiva, come ricordava Francesca anche nella segna stampa della notte delle elezioni. E Conte vuole fare il capo del nuovo Ulivo, e Berlusconi: si vince se si è liberale. Di questo vedremo all'interno del centrodestra il dibattito politico. Il Tempo: Zingaretti sul ring contro 5 Stelle. Il Messaggero: Conte, l'offerta del PD spacca i 5 Stelle. Andiamo al Mattino: dal governo alla campagna, il PD alza il tiro con i 5 Stelle. Il Gazzettino: il PD avverte i 5 Stelle, ora si cambia. Dunque il dubbio invece va subito al primo corno del problema che attraverserà il governo. Giustizia: il PD pressa i 5 Stelle. Il Secolo XIX: governo, ora il PD incalza i 5 Stelle. Orlando: candidato unico in Liguria. Gazzetta del Mezzogiorno: Conte Salvini, scontro sulla via Emilia. Quindi vedete che c'è in uno dei pochi giornali che non va a vedere i problemi del governo. La Notizia: Salvini fa più danno della coronavirus, l'epidemia piega le borse, ma lo spread migliora per il flap leghista. Avvenire: riecco il bipolarismo. Il Riformista, anche lui, salta per un giorno sul carro del vincitore. Vince il PD, Riformista perde il PD delle procure. Questo francamente è un'interpretazione tutta del Riformista. E questo è sempre vedere appunto la narrazione, che devo dire che se il PD si compiace del suo risultato senza capire il dato di ultima spiaggia di voto contro Salvini, e pensa di avere imboccato una strada meravigliosa, e si fa autoreferenziale ancora una volta, e magari anche un po' così supponente, ha dichiarato la sua fine. Comunque rischiamo altri 3 anni di giallo rossi invece di questo è Salvini. Il capo leghista difende la sua strategia: rifarei tutto dal megafono al citofono. Ora il Carroccio spera anche il segretario PD accelera la crisi per fare i conti con Italia di Valori, Italia Viva e 5 Stelle. Ma naturalmente è il momento della già non poca coesione del centrodestra per fare dei conti interni. Allora, rilancio azzurro di Berlusconi, vince il centrodestra liberale. Naturalmente Berlusconi guarda la Calabria, non guarda l'Emilia Romagna dove ha preso il 2 qualcosa per cento. Quindi dopo Piemonte, Molise e Basilicata, dice il giornale di Pierfranco Francesco Borgia, chiaramente stampato da Berlusconi Paolo, dopo Piemonte, Molise e Basilicata, il modello si conferma anche in Calabria, ora si punta a esportarlo alle politiche. E, l'esultanza di Fratelli d'Italia che avanza al nord e al sud, Meloni, nella coalizione cresciamo solo noi. Quindi questo è il quadro che arriva comunque, si vince se si è liberali, perciò stop al Salvini ultra di destra, ultra populista. Sul Day After di Lucia Borgonzoni, che non è uscita benissimo neanche dal voto disgiunto da questa contesa, Salvini: decido io se resta o va via. Naturalmente Salvini è ancora padrone assoluto in casa sua, perché dati i risultati che ha portato alla Lega, nessuno, nonostante certi serpeggi magari un malumore, osa metterlo in discussione ufficialmente, fatto salvo magari Maroni o a volte un po' meno Zaia. Scatta il processo degli alleati, che errore il personalismo. Forza Italia critica anche la candidata Meloni, scelte condivise d'ora in poi, e il leader straconvinto di averla scelta. Noi potremmo dire a Salvini: continua a sceglierla. Allora sì, è il grande sconfitto, anche se nega tutto ciò e chiaramente persiste con una campagna elettorale che conferma a modo suo vincente. Ci riproverò, risuonerei quel citofono, non gli ha portato benissimo, ma continuiamo a vedere dalle testate che ho sotto mano, da Repubblica al titolo principale. Passiamo allora al PD, dove parla Prodi, il padre dell'Ulivo: spalanchiamo il PD, basta con il partito delle tessere, aprire a sardine società civile. Zingaretti chiama una fase 2, il premier guarda avanti, serve un fronte contro le destre. E poi c'è un'altra debolezza importante, il crollo dei 5 Stelle, che inasprisce lo scontro dentro il movimento, che è spaccato in 3-4 parti, per cui deciderà poi un confronto se dividere o se continuare con queste realtà. Il pressing di Zingaretti, ora la fase 2 del governo, alleanze larghe, e dopo la vittoria alle urne il segretario del PD chiede ai 5 Stelle un rilancio della stagione riformista, ma attacca lo stesso Orlando che incalza più discontinuità col Conte 1. Il numero 2 del Nazareno invita i grillini a lasciar perdere la propaganda forcaiola sulla giustizia, le nostalgie di Salvini per chi ce le ha all'interno dello stesso movimento. Riprendo Prodi con un'intervista ampia a pagina 3 di Repubblica, la lezione è chiara, i Dem devono aprirsi, e ribadisce: basta partito delle tessere. Ora facciamo un congresso, dice lo stesso segretario Nicola Zingaretti insieme a Stefano Bonaccini ieri in piazza Modena, che riprenderemo dallo stesso manifesto. Dice: le sardine devono contare, con loro i sindaci candidati emiliani, in prima fila da sinistra Elly Schlein e Federico Pizzarrotti. Questo da Repubblica. Passiamo al manifesto, come vi avevo detto, a proposito di Modena e la sua piazza grande. È il titolo principale del manifesto. Respinta dal modello emiliano, l'onda nera della destra nel Day After del voto, Modena torna nella piazza delle sardine. Questa volta Bonaccini, tra l'altro aggiungo, lui è modenese, festeggia la vittoria che gli è stata consegnata anche dal voto disgiunto di gran parte dei 5 Stelle. Il titolo di analisi politica, lo slalom di Conte tra PD e 5 Stelle, il giorno dopo il voto si apre la partita nella maggioranza di governo, se appunto staremo a vedere. L'editoriale di analisi a proposito dei vincitori, cioè del PD, è Norma Rangeri: se ora il PD si monta la testa. Esattamente, staremo a vedere, appunto, che non ci sia un'autoproclamazione intesa semplicemente non come argine ma anche come costruttività. Indubbiamente potrebbe essere qualcosa di importante. Vedremo in questo partito che mette insieme diverse correnti quali saranno appunto gli ordini e il proseguire in tutto ciò. La Stampa, il PD a Conte, ora cambiamo agenda, parla il capogruppo del Rio alla Camera, i decreti sicuramente vanno cancellati, priorità a lavoro, famiglia e lotta all'evasione. Prime frazioni nell'esecutivo dopo le regionali, Emilia Romagna, il premier Franceschini, no a rivendicazioni contro il Movimento 5 Stelle. E poi abbiamo il reportage che tra l'altro mette sotto i riflettori il caso Bibbiano, tutta la montatura creata ad hoc per propaganda elettorale, la stessa Bibbiano dove il PD ha avuto il 68,3% come affluenza, il 56,7% al PD, Bibbiano esulta, così abbiamo punito Salvini, che può continuare tranquillamente se vuole con le sue strategie. La Stampa all'interno vede Se da Repubblica Prodi, dalla stampa a Renzi, a pagina 5, il PD ha un'opportunità, ci segua sui temi riformisti, basta populismo filo 5 Stelle, quindi avrete già capito, come dicevo in precedenza, anche all'interno del PD quante realtà. Non c'era in Emilia, perché è stato Stefano a chiedermelo, dice Conte deve andare avanti, assolutamente, ma innalzi il suo tasso di riformismo. Forza Italia ha toccato percentuali molto bassi, questo si apre a scenari fantastici, a delle praterie, dice sì, per diventare ulteriormente liberali all'interno del PD. Beh, del resto non ne ha mai fatto un segreto Renzi. Zingaretti, non capisco perché fanno polemica, fosse stato per loro oggi avremmo dato i pieni poteri a Salvini, così si difende e così denuncia, niente, sono tranquilli, Salvini è ancora fortissimo, certo, errore enorme sottovalutarlo, e come. Chiudo con il resto del Carlino questa prima parte, effetto Emilia, duello PD Movimento 5 Stelle, Conte, fronte comune contro la destra, ma i Dem chiedono più peso nelle scelte, no di crimi, che dice resta tutto così. L'analisi del flusso, fuga a sinistra dei grillini deluso, sale la quotazione di Bonaccini, Salvini nel mirino degli alleati, appunto come diceva prima Alfredo, che vede un Forza Italia ringalluzzito con un Berlusconi che dice vedete dico ancora la mia, e la stessa Meloni che prende forza ulteriormente, e all'interno della destra le spaccature diventano ancora più acute nella sconfitta sull'Emilia Romagna. Intanto i grillini delusi e la fuga a sinistra è a pagina 6, dopo le regionali, il day after di cui stiamo parlando, in primo piano sul resto del Carlino, e gli stessi flussi elettorali, e anche il calo in ogni singola città, anzi abbastanza direi più vicino a un'emorragia degli elettori del Movimento 5 Stelle, e la crescita degli elettori del centro-sinistra. Sì, sul governo e sulle vicende che si riverberanno sull'esecutivo, 5 Stelle come ago della bilancia, linea dura di crimi che gela il Premier e il Partito Democratico, racconta Alessandro Trucino dal Corriere. Il reggente crimi, i rapporti di forza non cambiano, le divisioni interne. Le divisioni interne al 5 Stelle però sono molto evidenti e ormai scoperte. Morra, non ho votato i 5 Stelle, dice il Presidente della Commissione Antimafia dei 5 Stelle. In lista c'era qualche ambiguità, basta capi politici, questo è il Corriere della Sera. Ma guardando poi i dati di realtà, perché questa è la narrazione che è importantissima, perché è la stessa narrazione che dava Salvini invincibile, adesso lo dà perdente, e sappiamo, vedi anche il precedente di Renzi, quanto la narrazione può incidere anche sulla realtà. La realtà è quella, gli elettori Dem tornano a casa secondo il sole 24 ore nei vari flussi dei voti, ma il centrodestra non arretra. Focus Emilia Romagna, recupero del PD a spese dei 5 Stelle, scesi al 4,7%, torna al bipolarismo, Dem sopra la Lega anche nei comuni non capoluogo. Devo dire che l'altra indagine vede che la Lega vince nei comuni sotto i 2000 abitanti, vince anche a Brescia, vince in Calabria e Riace, ma perde poi in tutti i comuni più sostanziosi, quindi si conferma il concetto delle tra virgolette periferie. Infatti dice il Carlino, il Corriere di Bologna, le 2000 uscite dal voto, Lega si prende i piccoli comuni, PD primo partito riconquista Imola e Forlì, Bologna ha sfatato il mito delle periferie sovraniste, perché a Bologna il PD ha raddoppiato i voti della Lega. Mentre tutti i giornali si confrontano su questa anatomia delle disfatta 5 Stelle, persi in 2 anni 500.000 voti, loro dicono nelle regionali abbiamo sempre perso dei voti rispetto alle nazionali, ma questa volta penso che loro stessi sono convinti che la cosa non sia sufficiente. Poi c'è il dibattito a sinistra, quella extra centro-sinistra. Contropiano trova, dice che l'articolo firmato da Dante Barontini, Contropiano giornale comunista online, torna a bipolarismo obbligato fondato sulla paura, ovviamente un voto che ha votato sulla paura del salvinismo. C'è così un pezzo al veleno, il ruolo delle sardine. I ringraziamenti arrivati ora da Zingaretti & Company confermano l'impressione che se n'era avuto fin dall'inizio. Lungi dall'essere un fenomeno spontaneo, la loro prima manifestazione a Bologna aveva un lancio mediatico preliminare che neanche una campagna dell'Apple si può permettere. Quindi qui si evoca finanziatori, chissà Soros. Questo movimento è stato fatto nascere per ricucire in parte lo strappo tra palazzo e società, rispolverando la funzione dei corpi intermedi, sindacato, associazionismo, movimenti d'opinione, eccetera, che proprio le politiche neoliberiste assunte dal centro-sinistra avevano contribuito ad annullare. Questa funzione di collante Ovviamente leggo del resto apertamente rivendicata da portavoce in principale quel Mattia Santori uscito dai pensatoi intorno a Romano Prodi e dovrà ora trovare una collocazione istituzionale più chiara nel fronte largo annunciato da Zingaretti. È indubbio dunque comunque che sul piano elettorale questa movimentazione sardinista abbia avuto un ruolo importante utilizzando al meglio la paura del poliziotto cattivo per convogliare i consensi verso quello buono. Chi invece sperava di trovare idee per un'alternativa, così dice Contropiano, dovrà velocemente riposizionarsi su altrove i suoi desideri, se ne ha. E questo è il non certo generoso ripeto, alle sardine, magari pensando che se non ci sono le sardine invece dello 02 avrebbe preso lo 04, chi lo sa. Ma poi c'è anche polemiche tra le altre liste della sinistra radicale. Le altre due formazioni, leggo ancora, si è detto senza alcuna intenzione di offendere, esprimono in modo diverso della solidarietà senza prospettive, per un verso un aumento dell'identità comunista in altre forme senza alcun ripensamento sul percorso fin qui fatto, dall'altro il fruttamento di ciò che resta l'attività dei simboli sottoposto come ovvio alla dura legge della fisiologia umana. E poi dice che Contropiano ha preso meno voti che firme per presentarsi. Insomma, questo è ognuno poi è responsabile onori no nel suo ragionamento. Le sardine, la festa e la scelta di restare in piazza in tutte le regioni dove si voterà. L'annuncio, ora la fase 3 è quella più dura. La rivincita, ci avete sbeffeggiati, umiliati, sminuiti come cittadini, come elettori, alla fine avete perso. Bettini, coordinatore del PD, ero deputato, quei raduni più importanti di 100 programmi politici, questo è indubbio. Mentre per il Fatto Quotidiano le sardine salgono sul palco, pensiamo a Sud e Jussoli. La più votata è lei, che non è una sardina, ma è anche una sardina, Elish Line, della lista coraggiosa, 22.000 croci sulla coraggiosa Elish Line, più dei big democratici. Questo è la quanto. E sulla Elish Line, che naturalmente in questi giorni è molto ricercata e descritta dai giornali, exploit di Ellie la coraggiosa, noi sinistra di periferia, miss preferenze fissa già l'agenda del PD, subito un patto per il clima e per il lavoro, questo è la, e qui ci sarà appunto il crodus saldus, vedremo se c'è davvero un PD che si apre o seppure invece è il PD che abbiamo già conosciuto e che si guarda allo specchio dopo una vittoria elettorale locale per magari poi buttarsi le ceneri sulla testa nemmeno sconfitte più di anni altrove. Dice la Schlein, la politica ritrova la connessione sentimentale con le sue piazze, questo è quanto. Poi ci sono le preferenze tra chi entra e chi esce, vedremo magari più avanti nel Consiglio regionale di Bologna, che comunque secondo quello della sera è così, l'assemblea è color rosso sinistra, il PD prende 22 seggi, la Lega ferma a 14. E allora parliamo di Elish Line, sentite anche la nostra maratona notturna sulle prospettive di questo accordo, questo patto su clima e lavoro, sentiamo qualche sua riflessione. Elly, ciao. Esatto. Fio, buonasera. Guarda, ti volevo riportare una battuta di pochi minuti fa del candidato del Movimento 5 Stelle che dice che è contento innanzitutto perché ha perso Salvini e poi perché Bonaccini sarà costretto a rispettare gli impegni che ha preso in campagna elettorale, i trasporti gratuiti e insomma da dove si parte? Beh, si parte proprio, spero, dal patto per il clima che Coraggiosa ha proposto e condiviso con Bonaccini all'inizio di questa campagna elettorale, in cui una delle proposte principali era proprio quella del trasporto pubblico locale gratuito che noi abbiamo chiesto per i giovani fino ai 25 anni, stimando un costo di circa 30 milioni per il bilancio della regione. Intanto Bonaccini, l'avete sentito nei giorni scorsi, si è già impegnato a renderlo gratuito per i giovani studenti fino ai 18 anni, quindi intanto è un primo passo avanti. Noi pensiamo che si possa fare addirittura di più e quindi andremo avanti in questa direzione. E l'altra questione che è insieme per noi, si tiene insieme a quella climatica, è quella sociale del lavoro dignitoso, quindi insieme al patto per il clima il rinnovo del patto per il lavoro già siglato nel 2015, perché c'è ancora molto da fare contro il precariato e il lavoro che si è impoverito, cioè l'abbassamento dei salari. Bene, È diventato virale, come si dice in gergo, un tuo video proprio di sollecitazione di Matteo Salvini sul discorso migranti, Dublino, soprattutto politiche nei confronti dei migranti, e il fatto che questo personaggio appunto in ogni occasione in cui doveva essere presente in Europa, soprattutto per quanto riguardava le sessioni di incontri che riguardavano le politiche migratorie, non si faceva mai vedere. Dal punto di vista delle politiche regionali, che cosa ti aspetti su questo tema, ma anche su altri temi? Mi aspetto che si prosegua e si difenda la buona accoglienza diffusa che in questa regione si è sempre potuta fare. Bisognerà però lottare anche a livello nazionale, certo, per cambiare le norme ingiuste, perché noi in questa regione abbiamo messo a rischio la tenuta del buon sistema di accoglienza, delle competenze e professionalità di tante operatrici e operatori del settore che dopo il decreto sicurezza stanno perdendo il lavoro. Quindi ecco, chiaramente c'è molto da fare anche a livello nazionale. L'Emilia Romagna però ha l'autorevolezza per chiedere un cambio di paradigma anche a livello nazionale sulle politiche migratorie. Io ricordo sempre, e ho ricordato di persona Salvini l'altra sera, che la firma sulle leggi peggiori di gestione dell'immigrazione è sempre stata della Lega, perché loro erano già al governo nel 2003 quando fu approvato il regolamento di Dublino a livello europeo che ha bloccato migliaia di richiedenti asilo in Italia. Loro è la firma del 2001 sulla legge Bossi-Fini, che è una legge che mira a creare irregolarità sostanzialmente per poi candidarsi a governarla, impedendo ogni via legale di accesso a questo paese, quindi anche lì sarebbe da ripensare, e poi i decreti sicurezza. Ecco, quindi io gli ho ricordato che non, è molto ipocrita che lui si riempia la bocca di immigrazione quotidianamente e non racconti che quando c'era da cambiare la riforma più importante per l'Italia in Europa, io non li ho mai visti presenziare a nessuna delle 22 riunioni di negoziato e al momento del voto si sono astenuti. Ecco, quindi bisogna fare una grande operazione verità e intanto qui in regione, diciamo, cercare di proseguire nel lavoro sulla buona accoglienza diffusa sul territorio, in piccole soluzioni abitative, con adeguati servizi di inserimento delle persone e con trasparenza anche nella gestione, ecco, sul modello SPRAR. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. Continuiamo l'analisi collegandoci appunto alle parole della Schlein, che la troviamo in prima pagina sul Resto del Carlino in un occhiello di approfondimento a proposito del Toto Assessori. Per la nuova giunta, la super votata Schlein in pole position, Felicori è pronto per la cultura. Questi sono i due nomi che vengono indicati dal Resto del Carlino per dare una continuità all'intervista che abbiamo appena ascoltato. Per quanto riguarda altre notizie che ci riportano alla politica interna, beh, andiamo in Calabria, la sinistra traballa la tarantella, la batosta è grande ma prevale la tentazione di minimizzare. La coalizione passa dal 61,2% del 2014 al 30,1%, cioè dimezza anche più i voti, e il PD perde 10 punti. Questo è quello che arriva dalla Calabria, non certo da minimizzare o da sottovalutare, tutt'altro. E per quanto riguarda il lavoro e l'economia, dopo il voto basta alibi, il governo riveda la legge Fornero, sono a pagina 8 del manifesto. Intanto vediamo il segretario generale della CGIL per quanto riguarda queste dichiarazioni, Maurizio Landini, dopo l'incontro al Ministero del Lavoro. Pensioni, incontro con i sindacati, avviato un confronto serio, serve una flessibilità in uscita a 62 anni, al via tre commissioni. Le restiamo in tema, non una di meno ai sindacati, convocate lo sciopero generale il 9 marzo, lettera aperta del movimento transfemminista che organizza due giorni di lotta a partire dall'8 marzo. Quindi altre argomentazioni le possiamo prendere di spunto da Repubblica per quanto riguarda il contorno di queste realtà. Mi ricollego in questo caso invece alle Sardine. Le Sardine, Premier Dem, incontriamoci. Siamo pronti a vedere Conte e Zingaretti. Ieri la prima telefonata di Bonaccini a Santori. Ora lavoriamo su accoglienza e ambiente, appunto, che sono tra le realtà principali per quanto riguarda il movimento delle Sardine, che riempie anche la piazza di Modena. Conte adesso parla da leader, come ho citato in precedenza, un fronte contro le destre e poi il salto a sinistra degli ex grillini. Per Bonaccini addirittura un 40% all'interno del movimento, per Bonaccini 4 su 10. Buon governo e Sardine, gli assi nella manica della Fortezza Emilia. Questi sono i titoli che vanno a commentare o a, diciamo, completare tutte queste realtà. Mi soffermerei a pagina 9 sulla rivincita di Bibbiano, che punisce i populisti. Basta caccia alle streghe. Il PD trionfa nel paese che ora sembra archiviare i mesi peggiori. Noi vittime di una strumentalizzazione oscena, sì, detto da tempo. Ci hanno perfino proposto di cambiare nome addirittura, e le sconfitte simbolo, dal Pilastro col famoso citofono, a Milano Marittima con gli happy hour, a Forlì l'onda verde si è fermata. Il 40,7% i Dem a Bibbiano, il 48,8% a Cervia, il 40% il PD al Pilastro a Bologna. Allora, per gli sconfitti, e Borgonzoni sconfitta finisce nel mirino del fuoco amico. Questo è un grande classico. Qualcuno dia a Lucia il numero di Bonaccini e il corsivo di Luca Bottura, che ironicamente appunto dà il consiglio. Il resto del Carlino, di cui abbiamo già letto in precedenza i titoli principali, per quanto riguarda la realtà di approfondimento, con appunto personaggi presenti ma sempre, anche se apparentemente fuori dal gioco, ancora pronti a dirla loro. Casini, di cui abbiamo letto anche ieri alcune dichiarazioni, ha vinto il buon governo. Salvini sconfitto, ma non è finito. L'analisi del senatore centrista: sì, il capitano ha alzato i toni, gli elettori moderati si sono mobilitati contro di lui. Il sostegno a Bonaccini: il governatore ha saputo tirare voti di un arco ampio dalle Sardine ai forzisti delusi, così ha vinto la sfida, dice, perché è riuscito a coinvolgere in un ampio spazio e quanto mai esteso più voti possibili. Salvini cerca spazio al centro, si rivede, quindi per vincere serve una squadra. Il capitano sferza gli alleati e anche il Cardino come Repubblica. Il citofono ci ha svegliati. Pilastro: Salvini resta fuori. Viaggio nella periferia bolognese che ha punito il leader leghista. Nessuno può descriverci come il quartiere della criminalità. Lui continuerà a citofonare, ha detto, ma il risultato è stato, insomma, quanto mai esplicito. Beh, questo il resto del Carlino. Proseguiamo e concludiamo con queste realtà di approfondimento che vanno a concludere la politica interna con La Stampa di Torino. Salvini non citofonerà il premier, chiede un aiuto agli alleati di destra, che in questo caso invece tutt'altro, dicono no, noi adesso abbiamo importanza. E infatti, vado a pagina 9 della Stampa: ora Salvini faccia gioco di squadra, la sua citofonata non l'avrei fatta. Quindi questa è la risposta alla mano tesa. La leader di Fratelli d'Italia, la Giorgia Meloni, centrodestra competitivo anche in una regione difficile come l'Emilia, mette in guardia il leader leghista. In politica la polarizzazione sul singolo offre molti alibi agli avversari. Lo stesso Berlusconi, che tira dritto, ignora il tracollo dei voti e dicendo il nostro partito è vivo. Quindi, insomma, le realtà di autogiustificazione per Berlusconi è per dire: ehi, ci sono anch'io adesso che siamo in difficoltà e posso portare questo. La bancarotta ideologica via il declino, Movimento 5 Stelle in uno stato di premorte. Addirittura Andrea Malaguti a pagina 11 della Stampa: tra scontri di idee e cambi di compagni si è lentamente ridotto l'interesse degli elettori, indubbiamente. Chiudiamo con la Calabria, che volta la spalla ai grillini: meno voti che redditi di cittadinanza, che è stata una delle argomentazioni sulla quale è stato più presente il Movimento 5 Stelle. Delusi gli elettori del Meridione, la rabbia del Movimento, sputano nel piatto dove mangiano, polemiche per l'assenza dei leader nazionali. Per chiudere il quadro, parlando della prescrizione, no, dopo prescrizione non c'è solo la discussione forte, diciamo così, con eufemismo, tra Orlando e Spadafora, tra PD e 5 Stelle, ma dice il giornale: giustizia, la guerriglia di Renzi non va in prescrizione. Il PD vuole rimandare Ma Italia Viva e pronta a votare con il centro-destra. Anche questo sarebbe, diciamo, una diserzione dalla maggioranza, una diserzione tra virgolette che metterebbe a rischio il governo Conte. L'altro tema, sempre segnalato dal giornale, taglio dei parlamentari, il referendum 29 di marzo, lontano il voto anticipato, che poi è tra due mesi, non è che sia tra sei anni. E per adesso non abbiamo né una riforma elettorale modificata e nemmeno una riforma dei collegi elettorali, quindi con un sì che si implicita il taglio dei parlamentari, così si darebbe un maggioritario allucinante alla forza che raggiunge la maggioranza relativa. Fissata la data della consultazione, 29 marzo, se vince il sì vanno ridisegnati i collegi elettorali. Questo è il giornale. Ma da questo invece passiamo ieri all'altro tema, la giornata della memoria. Allora, in tutta Italia, nel mondo, si fanno iniziative di base e istituzionali ai massimi livelli oppure nel quartiere per ricordare la terrificante vicenda della Shoah che coinvolse il popolo ebreo d'Europa, coinvolse gli antifascisti, coinvolse gli slavi, coinvolse gli omosessuali, coinvolse anche gli zingari. Quindi questa logica ariana faceva tutti sentire stranieri in casa propria. E allora il viaggio, le tappe italiane dell'orrore nazifascista, giustamente Alex Corlazzoli, perché molti pensano che la Shoah sia un problema tedesco, no, un problema anche italiano, fino in fondo italiano, gli estrellamenti erano il nostro paese e il razzismo lo abbiamo ereditato dalla Germania, anzi il concetto ariano l'abbiamo creato noi, poi i nazisti l'hanno recuperato, per essere sinceri, ma l'hanno recuperata alla grande. Però detto questo, non fu farina amara e velenosa del loro sacco. I campi di concentramento, luoghi e storie della memoria, il treno dei deportati a Milano e la risiera di San Sabato Trieste, Fossile e Ferramonte. C'è anche Carpi, sappiamo essere nella nostra regione il luogo, era l'hub, si direbbe oggi, dove si convogliavano questi disgraziati per mandarli a Tbilisi, a Auschwitz, Mauthausen e quant'altro. Nella penisola, ebrei, stranieri, nemici, internati dai fascisti fin dal 40, dalla Calabria alle Marche. Questo è il quadro che arriva. E devo dire che i giornali parlano molti di queste iniziative tutto campo, e io dico che bisogna in qualche modo, certamente la memoria, ma pensare anche al presente, perché altrimenti, e allora andiamo a Cremona, giornata della memoria del presente, io gay aggredito, ma l'omofobia non è un aggravante, picchiato in palestra ho dovuto cambiare la città. Si è fatto il segno della croce prima che il giudice leggesse la sentenza, e poi si è commosso quando ha sentito che gli aveva fracassato il naso e che la mascella con un pugno dandogli del brutto finocchio di merda. Nel nostro paese non sai quello che fanno a quelli come te. Era appena stato condannato a 8 mesi di reclusione per lesioni e a risarcirgli subito i danni con 2.695 euro la provvisionale, ma la sentenza emessa ieri nei confronti di Adel Hamad, tunisino di 35 anni, lo soddisfa a metà, perché appunto non c'è l'aggravante per reati di omofobia. Della serie sempre giornata di memoria del presente, insulti alla barista e svastica, ho paura, non so se riapro, raid razzista nel bresciano, ma Hedida, la proprietaria, avevo già ricevuto delle minacce. E quindi hanno rotto le vetrate del suo bar, una pompa di benzina con tanto di svastiche disegnate con la vernice, insomma. L'assalto è avvenuto alle di notte, non ci sono telecamere, il sindaco leghista dice spregevole, ma insomma diciamo che la cultura dell'odio non è del tutto estranea a queste parti politiche. Un'altra scritta antisemita in un cortile di Torino, qui abita un ebreo, abbiamo già visto queste cose ignobili. Insomma, tutto questo ci porta alla voce della stessa Madia, questa barista 36 anni, nata in Italia da genitori arrivati dal bresciano dal Marocco, stata svegliata verso di notte lunedì 27 gennaio dall'allarme del bar. Una volta arrivata sul posto ha visto quanto accaduto, con il bar precedentemente colpito da raid razzista e sessista. Sentiamo la sua voce. È caduto questa notte intorno alle 2:10, 2:15, penso, l'orario in cui mi è squillato, diciamo, il telefono per avvertirmi dell'allarme, insomma. Io abito a Poegnago, a quasi 30 chilometri, ho preso la macchina per andare giù pensando appunto che fosse solo qualcuno è entrato per fare uno scherzo oppure ho qualche problema tecnico di corrente, e quando sono arrivata purtroppo ho trovato tutte le vetrate spaccate, ho trovato tutte le tende dall'esterno, praticamente un gazebo, tutte lacerate con taglierino e quant'altro, e in più ho trovato delle scritte con la bomboletta di colore nero sia esternamente che internamente al bar. Ho trovato tutti i frigor svuotati completamente, tutti per terra, delle bottiglie di whisky, grappa, latte, tutto versato sulle vetrine, spaccati bicchieri, insomma una situazione poco gradevole, ecco. Quindi hanno fatto molti danni e era evidente che quindi non era un tentativo di furto, ma proprio no, assolutamente. Sicuramente il furto non è stato, nel senso che non hanno rubato, a parte diciamo degli intorno ai 250 euro che era ciò che tenevo come moneta, diciamo, di scambio per far moneta, ecco, però poca roba, e poi le bottiglie così, tutto rotto. Era più un discorso di dispetto che per quanto riguarda il furto, diciamo. Ecco, un dispetto che però ha sicuramente una caratterizzazione razzista, visto gli insulti. Secondo me sì, nel senso che comunque oggi è l'anniversario, se non erro, io non sono italiana, quindi è il 27, è un anniversario abbastanza importante, mi succede una cosa del genere, il bar si chiama Casablanca, io sono mulatta, se vuoi, sono di origini marocchine, non rubano, spaccano solo, mi creano dei danni e mi rendono impossibile la possibilità di lavorare, perché io purtroppo adesso per qualche settimana non potrò neanche lavorare, ho delle spese, ho delle problematiche importanti, cioè, e poi delle scritte non leggere, io non so se si possono ripetere, però insomma. Sì, guarda, sono state anche già adesso diffuse, quindi sono scritte con la svastica e insulti legati al il tuo colore della pelle, insomma, no? Esatto, se non è per il colore della pelle è un discorso sessista, nel senso che secondo me, come ho parlato precedentemente con la giornalista che c'è stata questa mattina, in entrambi i casi comunque è una cosa improponibile nel 2020, perché io faccio 16 ore di lavoro al giorno, cioè pago le tasse, pago i contributi, pago tutto quello che c'è da fare, lavoro onestamente, lavoro in un ambiente prettamente maschile, e ogni giorno per me è una lotta, nel senso che comunque io faccio 30 km di strada per andare ad aprire il bar ogni mattina. Avevo una dipendente, purtroppo non potevo più permettermi la dipendente, faccio tutte le ore da sola, mi devo gestire da sola, e quindi questa proprio non ci voleva, nel senso che comunque l'integrazione va sempre nominata, io sono molto integrata, nel senso che sono nata in Italia, però non è servita a nulla. Ecco, tu peraltro hai già anche la cittadinanza, no? Sì, sono nata qua, cioè, nel senso sono straniera tra virgolette, però sono molto più italiana io di tante altre persone, nel senso che comunque parlo perfettamente la lingua, sono diplomata in ragioneria, cioè non è che sono l'ultima arrivata. Sono qua a lavorare, non a giocare o a farmi mantenere, potrei fare qualsiasi altra cosa, però sono lì, faccio 16 ore al giorno, io mi comporto bene e tratto tutti nello stesso modo, nel mio bar non si parla quasi mai l'arabo, proprio per rispetto verso chi ci entra, parlo sempre l'italiano, cioè sono delle piccolezze se vuoi, però io rispetto il paese in cui vivo e le regole che comportano, però non c'è stata la stessa cosa nei miei confronti. Dopo uno mi può dire non è stato un discorso sessista, non è stato un discorso di razzismo, però purtroppo le scritte c'erano, per sviare o meno, perché qualcuno magari mi ha detto che sono state per sviare, però io le ho viste quelle scritte là e ci sono. Certo. E sicuramente c'è stato più il danno morale che poi effettivamente quello del bar in sé, perché si ripara tutto, però poi sono delle cose che sono dei segni che ti lasciano e non riesci a surclassarle, diciamo, quindi cioè io adesso non so se potrò riaprire la mia attività, perché questa volta è capitato al bar, domani Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Dalla memoria di oggi alla memoria di ieri e viceversa, per dare un filo conduttore, tra l'altro mi riallaccio all'intervista, parla perfettamente anche con un chiaro accento e una cadenza bresciana, per cui direi che vabbè, ma questo è folklore, le realtà sono ben più importanti e preoccupanti. La Shoah, la memoria di Auschwitz nei volti dei salvati, siamo in prima pagina di Repubblica, sono fotografie e immagini, il vecchio vestito a festa, piange a dirotto, cammina verso il muro dei fucilati, al fazzoletto di chi è tornato dai morti. Le immagini, appunto, la memoria nei volti di chi scampò l'Olocausto, qui ritratte da un album fotografico e progetto soprattutto di immagini che contiene 75 ritratti di sopravvissuti all'Olocausto per i 75 anni dalla liberazione di Auschwitz. La foto in pagina che noi abbiamo trovato sono appunto tratte dal libro fotografico Survivors. Auschwitz, ascoltate il nostro dolore per non restare indifferenti. Ma a volte restiamo indifferenti purtroppo, come dicevo, il salto avanti e indietro per denunciare questa realtà ci riporta all'oggi. Lo facciamo da pagina 9 del manifesto, lascio Repubblica. Bogdan Hendutike è morto per un endema polmonare. Siamo al CPR di Gradisca di Isonzo. Lo riporta solo il manifesto. Entro 60 giorni arriveranno i risultati degli esami istologici e tossicologici, i primi risultati dell'autopsia sul corpo del 38enne. Molti gli interrogativi sono ancora aperti. Questo ragazzo sarebbe morto per un endema polmonare. Il primo risultato dell'autopsia eseguita ieri sul corpo del 38enne georgiano deceduto sabato 18 gennaio dopo il trasporto in ospedale del CPR di Gorizia di Isonzo. L'esame autoptico è stato condotto appunto dai medici e dagli specialisti. Erano inizialmente però state ricercate in una colluttazione avuta martedì 14 con un uomo di origine egiziana all'interno della struttura, che come ben sappiamo, più che delle strutture, sono veri e propri centri di detenzione, no? Un intervento descritto da diversi testimoni come molto duro. Il procuratore di Gorizia Massimo Lia comunque ha invitato alla prudenza. Prudenza, certo, dalla Libia in guerra, in attesa di un porto sicuro, più di 400 migranti sulla Ocean Viking, 12 donne incinte e molti bambini. L'OIM, più di 2000 persone ancora rinchiuse nei centri in condizioni atroci come quelle che vi ho descritto in precedenza, lo riporta il manifesto. 12 donne incinte, bambini di tutte le età, i volontari di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere se li passano di mano in mano nella notte, trasferendoli dai gommoni di salvataggio fino sul ponte della Ocean Viking lentamente, con attenzione ma anche con fare fermo e deciso per non mettere in pericolo di vita nessuno. Lo sono già abbastanza di loro, ormai sono 407 i migranti salvati che erano rimasti sulla nave da giorni. Per la cronaca guardiamo anche l'ambiente. Allarme smog a Milano, sala blocca il traffico domenica senza le auto. Servono misure strutturali, dice il sindaco, ma ora devo intervenire. Quindi sono in misure tampone, aspettando appunto che cosa cambia anche a livello nazionale sulla cultura del fossile, delle emissioni e quant'altro. E anche la cronaca milanese, sempre il Corriere, dice smog, riparte la sede nera. Sala domenica blocca le auto. Anche a Bologna leggiamo, leggo dal Corriere di Bologna, allarme smog fino a giovedì, nuovi divieti ai diesel Euro 4. Questo bel tempo qui cappa non solo la nebbia ma anche il polvere sottile, chiaramente non facilita il problema della respirazione. Una notizia con double face. Dal caso viene segnalato da Virtuani dal Corriere, il primo cucciolo dopo 36 anni, la foca monaca torna nei nostri mari. Brindisi, le cure al piccolo spiaggiato. Quindi da una parte c'è un ritorno, ma però si spiaggia, quindi è una buona o una cattiva notizia? Un cucciolo di foca monaca nei mari italiani non si vedeva da 36 anni, dice ancora incredula Isabella Pratesi, direttrice conservazione del WWF Italia. Un piccolo di foca monaca lungo circa 120 centimetri viene infatti avvistato sabato scorso le spiagge salentine tra il Frigolo e San Cataldo in provincia di Lecce. Dopo un paio di ore a prendere il sole, al riparo di un cordone protettivo, è stato subito disposto per non disturbarlo, il cucciolo di pinnipede ha ripreso il mare. E quindi la notizia è un happy end. che è vera foca, Caterin è forma un bolla, non sei una ri, che è vera foca, ma se paunia, è taragliella, una sardina, che è vera foca, comprare un'antica, e questa è la na barriga, la vai a foca, toda domanda, non sta in circo, tra garottana, la vai a foca, subindo a scada, depois descendo, desengonçada, quanto trabalha, a coitadinha, pra garantir isso, a sardinha. É que a foca americana, meninada, um bolso cheio de dólares, rica, rica, rica, mas não dá para ninguém. Olha lá, mastigando chiclete, nham, nham, nham, nham, nham. Quer ver a foca? Fica feliz. Quer pôr uma bola no seu nariz? Quer ver a foca? Bater palminha. Quer dar a ela uma sardinha? Quer ver a foca? Comprar uma briga? É espeta pela na barriga. Olá, la foca francesa, meninada! Vejam só a foca francesa! Toda guilicanga! Usa um sapatinho alto, muitas plumas, é a carinha de Brigitte Bardot! Lá vai a foca, toda arrumada, dançar no circo, pra garotada. Lá vai a foca, subindo a escada, depois descendo, desengonçada. Quanto trabalha a coitadinha, pra garantir sua sardinha. Lá vem a foca brasileira, dançando um samba. É de aliás, foi, foi, sapatinho branco. Ô, tico, tico, lau. Olha ela, vai dançando, vai dançando. Vai, vai, caiu. A foca brasileira caiu. Caiu de fome. A coitadinha da foquinha brasileira no dente da vinha. E dopo lo stacchetto musicale torniamo in diretta verso la conclusione della nostra rassegna. Beh, evidentemente particolarmente vivace questa foca brasileira, ma particolarmente vivace è stato anche il maltempo, la nebbia, la fretta. Pensate che solo negli Stati Uniti d'America, per la precisione, la tendenza sempre più diffusa, dettata dalla fretta, dettata magari da quello che può essere il tutto e subito, anche se chiaramente non si può dare la colpa a questo, ma decisamente più al maltempo. Troppi velivoli sulle metropoli americane, solo nelle aree di Los Angeles, pensate, 41 eliporti. Ed è stata una strage nella nebbia per quanto riguarda l'aspetto umano, emotivo e tecnico, ampio approfondimento al Mood Groove di oggi. Per quanto riguarda la cronaca, invece, lo riprendo a pagina 18 velocemente dalla stampa, sappiamo le cause in maniera così riportate nell'immediato, causa maltempo, l'elicottero di Bryant non doveva volare, gli Stati Uniti in lacrime, il maltempo è la causa più probabile dello schianto, il pilota ha avuto un'autorizzazione speciale per il decollo, e qui mi rifaccio alle parole che ho detto in precedenza. Un approfondimento su questo grande atleta che è cresciuto con noi, in effetti figlio di Joe Bryant e quindi cresciuto a Rieti, e purtroppo il sogno spezzato di Gianna, già il nome italiano, diventare star dei canestri seguendo le orme del padre. Questo a pagina 18 per il congedo e la tragedia della famiglia Bryant. Continuiamo a parlare degli esteri, e la notizia principale chiaramente che arriva è dalla Cina. Proseguono gli approfondimenti a pagina 10 per il coronavirus. Wuhan in trappola, la Cina invia il premier, l'OMS dichiara alto rischio, cioè ogni giorno vi è sempre un innalzare di questo motivo di tensione, di paura. Li Keqiang, capo di un team anticrisi, rincuora la popolazione, accusa l'autorità locale, occultati i veri numeri dell'epidemia. 82 vittime, quasi 3.000 malati in Cina, si parla già anche di contagi in Vietnam ed altre zone limitrofe con estrema facilità, e infatti dubbi sulle misure adottate. Circa 5 milioni di persone avrebbero lasciato la città prima dell'allarme e non sono certo poche. Quindi ci spostiamo velocemente a pagina 11 per il famoso Ukraine Gate e la famosa pistola fumante di John Bolton. Il New York Times anticipa il contenuto del libro dell'ex consigliere per la sicurezza, che ne sa diverse. I democratici vorrebbero ora convocarlo come testimone in Senato, è un altro motivo di impeachment per il presidente Trump, qui vicino a John Bolton alla Casa Bianca. L'ex consulente per la sicurezza nazionale di Trump, il falco John Bolton, potrebbe aver procurato la famosa pistola fumante, le prove delle prove che mostra la colpevolezza del presidente USA nel caso dell'Ucraina Gate. E naturalmente quello che non sanno spiegare i repubblicani, che queste accuse non vengono da qualcuno di Occupy Wall Street, da qualche comunista socialista, da Bernie Sanders, arrivano dai più fascisti amici di Trump, quindi sono abbastanza credibili. Comunque, al mercato di Tripoli, si parlava di memoria, parliamo anche del presente, ovviamente le due cose non possono essere scisse. Al mercato di Tripoli, dove i migranti diventano soldati. Le milizie reclutano tra i giovani che attendono di partire. Vuoi un lavoro da muratore? Vai in prima linea. Quindi il ricatto caporalato di guerra viene così definito giustamente nell'articolo di Francesco Battistini, un comandante che dieta ad Haftar come usa i nigerini. Amnesty, niente prove. Comunque è una cosa che si ripercorre nel tempo, questa milizia coatta. Si diceva appunto della Cina, che naturalmente c'è un aspetto sanitario con questo controordine dell'OMS che dice molto più pericoloso di quanto avessimo pensato in un primo momento, vista la velocità del contagio. L'OMS ha alto rischio di ridiffusione, i morti sono 81, il primo a Pechino, una turista in cinese ricoverata a Pistoia. Questo naturalmente ci sono anche i falsi allarmi, fortunatamente, sia per i ricoverati ma anche per tutti quelli intorno a lui. Ma c'è l'aspetto anche economico, perché questo virus mette in ginocchio un po' un potentato come la Cina a livello economico, con delle conseguenze di riverberi anche su tutti nel mondo difficilmente ponderabili nell'immediato. Cina, shock su borse e materie prime, allarme virus, i dubbi sull'impatto economico spingono il petrolio Brent sotto i $60, l'oro riprende a correre, classico l'oro, bene rifugio, è il termometro delle paure. I listini, le piazze finanziarie bruciano i guadagni da inizio anno, sotto pressione lusso, comparto aereo e tecnologici. E c'è la profezia di Bill Gates che sulle 24 ore riporta: il mondo va preparato alle pandemie. Effettivamente c'è un dato, da una parte sempre l'utilizzo maggiore scriteriato degli antibiotici, che rendono gli antibiotici meno potenti evidentemente, d'altra parte la globalizzazione di merci e persone. È chiaro che tutti pensiamo, sto sotto, che c'è una mega spagnola in arrivo, speriamo sempre che la scienza ci metta il siero e il vaccino. Ma comunque questo ci riporta ai tempi innocenti, quando si parlava di febbre, ci parlava di Elvis Presley. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You're in a fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing. E su Elvis Pelvis guardiamo anche la cronaca locale, che poi è tutto quello che abbiamo già raccontato sulle cronache nazionali, con l'elenco degli eletti e non eletti, dei grandi esclusi. Poi vedremo appunto quelli che verranno recuperati in un secondo momento. Segnalo invece Mihailovic e Sant'Orso, la nuova terapia antivirale, i nostri migliori auguri. compiacendoci che il suo appello al voto a Bologna non ha portato un grande risultato su questo versante. Ma comunque mille auguri mi ha, lo dice evidentemente, per la sua salute. Noi ci congediamo appunto con Elvis Reperli, a sentirci domani alla stessa ora. Ciao a tutti.